10 di luglio 2025. Intervista a Sonia De Luca. Allora Sonia, tu ti ricordi quando hai iniziato a partecipare al Movimento della Pantera e per quale motivo hai iniziato? Allora, il momento preciso è abbastanza vago. Ho più, come dire, una sensazione di un luogo dove io ero venuta sostanzialmente per dare esami, per studiare e fare l'università. E cambia comunque un po' l'atmosfera, nel senso che quello che era esclusivamente un luogo di studio e dove andare a dare gli esami diventa un po' qualcos'altro, ecco. Quindi il momento preciso non ho una data, non ho un ricordo. Ho un ricordo un po' più di una sensazione, di un'atmosfera che stava cambiando. Cambiava perché c'era, come dire, anche nel cortile della facoltà di scienze politiche c'erano i manifesti, c'era gente che discuteva, c'era un ambiente decisamente molto più animato, ecco, di quello che avevo approcciato io arrivando in università, anche perché frequentavo delle università luoghi molto diversi, no, da quelli che probabilmente già c'erano, che facevano politica. Io frequentavo l'aula periodici, appunto il mio scopo era studiare e fare esami. Mi sono ritrovata a non studiare, a non fare esami, però ecco, sicuramente per me un po' mi è cambiata decisamente la vita, ecco, con questo incontro col movimento. Ecco, però molti studenti che facevano questa vita poi si sono tenuti in disparte. Tu a un certo punto decidi di interessarti e poi di partecipare. Sì. Ti ricordi qualcosa, non so, delle motivazioni di quel movimento, o comunque che cosa ti ha spinto a interessarti a quello che stava succedendo? Ok, secondo me la cosa principale non credo fosse prettamente politica per me, cioè nel senso non... rispetto alle parole d'ordine e alle analisi che si facevano, quello che volevo approcciare era proprio far politica, ecco. Mi mancava un po', era un aspetto che mi era un po' mancato durante le superiori, perché comunque io arrivo dalla provincia e quindi quello che c'era stato nel paese dove io facevo il liceo era stato veramente un riflesso molto molto lontano, però arrivo comunque da una famiglia che politica, in particolare mio padre, politica l'ha fatta e l'ha pagata anche, no, fortemente, e quindi non so se era un po' quasi un'eredità o un contrariare anche mio padre, che mi diceva: mi raccomando, non fare politica perché poi la pagherai, che era un po' la sua storia, no, personale. E quindi di parole d'ordine in particolare o di sicuramente era sentivo più che altro forse quasi quando tornavo a casa, ecco, le notizie che arrivavano da altre città, e che credevo che appunto in qualche modo quel cambio di atmosfera stesse riportando anche nella mia università. E quindi così un po' è stato un approccio un po' inconsapevole, ecco, probabilmente. Tu hai dei ricordi rispetto allo svolgimento dell'occupazione? Allora, io all'occupazione, io per esempio non ho mai dormito in università, io non ho partecipato all'occupazione proprio perché comunque vengo da una famiglia fortemente autoritaria, tradizionale, quindi per me non era assolutamente fattibile neanche dormire. Ecco, quello, cioè, credo che sia uno dei più grandi dispiaceri che mi porto dietro di quel periodo, no? Di non aver potuto essere veramente parte integrante di quell'esperienza, perché io poi a una certa ora dovevo tornare a casa. Quindi, però quando arrivavo la mattina, ecco, mi sentivo che quello era il momento in cui si potevano fare delle cose. Io, non avendo un'esperienza politica pregressa, di quasi, se non appunto il riflesso, però era molto un po' buio, no? di mio padre, la cosa più grande che per me doveva arrivare da quei momenti era imparare. Quindi appunto io ho dei riferimenti, sono quasi più delle figure, delle persone che non... anche dei momenti assembleari di contestazione, per esempio durante delle elezioni, che era una cosa che rompeva completamente il clima dell'università. Cioè, io andavo a lezione per ascoltare il docente, per prendere appunti e per studiarli. Il fatto di entrare insieme ad altri a contestare proprio delle lezioni, per come venivano tenute, perché diciamo in quel momento c'era una grandissima carica di contestazione, che secondo me era una carica che arrivava anche dagli anni precedenti, no? E per me erano momenti di quasi per imparare, ecco, più che, quindi avevo fame di imparare, di ascoltare, e sono stati dei momenti dissacranti ed estremamente formativi per me, cioè il poter dire no all'autorità, ecco. Credo che, ecco, anche quella è più una sensazione che un ricordo preciso. Ho un ricordo di una lezione, però non saprei dire che lezione era, e mi ricordo in particolare una delle donne del movimento. L'altra cosa è la presenza di donne, cioè delle donne che erano, adesso sì, il termine leader, però erano delle donne che avevano delle idee molto chiare, che le sapevano esprimere e che avevano la forza e la capacità per farlo, neanche all'interno particolarmente casomai di un discorso femminista, cioè c'erano c'erano e basta. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me è importante della mia esperienza lì, anche perché, sempre perché io vengo da una famiglia estremamente tradizionalista, in cui il ruolo della madre e della donna era abbastanza definito. Durante l'occupazione il movimento si era organizzato anche in commissioni, ecco, che era una cosa tra l'altro anche un po' controversa, perché c'era parte dell'assemblea che diceva che le commissioni espropriavano poi i momenti di decisioni. Tu ti ricordi di aver fatto parte di una commissione? Allora, sì, e per me, proprio per il motivo che dicevo prima, ma che per me era quasi più un partecipare per crescere, per formarmi, per me la commissione era invece sicuramente la soluzione ideale, no? Cioè, stare all'interno di un gruppo un po' più ristretto che si occupava di una cosa specifica era, e quindi sì, anch'io poi diciamo mi è rinfrescato la memoria, ma la questione della didattica me la ricordavo, e anche lì cioè, dire a una studentessa che è appena entrata in università praticamente. Quindi tu eri matricola nel... Io non ero esattamente matricola, forse ero al secondo anno, perché qualche esame l'avevo dato in, come dire, dal primo piano della periodici, non ecco, e ritrovarsi, come dire, a discutere e a anche mettere, cioè discutere e mettere in discussione la didattica, cioè per me evidentemente è stata una cosa abbastanza forte, perché io ero lì per dare esami, e il fatto che invece si potesse mettere in discussione anche il programma di studio, ecco, quello che mi ricordo molto bene è che, come dire, è stata una, secondo me, una cosa importante del movimento della Pantera, era la difesa un po' del piano di studi, no? Cioè, quando ero io in università il piano di studi era ancora molto probabilmente non così tanto come negli anni precedenti, ma io mi ricordo che la nostra possibilità di scegliere gli esami era sì all'interno di aree tematiche, però abbastanza libera, e quindi, cioè, io mi ritrovavo insomma in un'università dove tu potevi scegliere anche, sempre però all'interno di un contesto definito. Certo. All'interno comunque di questa libertà, però di un contesto formale, far parte di una commissione didattica che comunque andava un po' a verificare i programmi, a contestare eventualmente delle scelte di testo. Ecco, per me non so come mai ho scelto proprio la didattica, ecco, perché effettivamente a pensarci adesso, con queste premesse, è abbastanza particolare. Tu poi, finita l'occupazione, hai fatto un bilancio di quelle, in parte mi hai anche già risposto, però comunque hai fatto dei ragionamenti su quel tipo di esperienza, su come è andata, se sei vinto, se sei perso, se è valsa la pena, che cosa è rimasto, insomma. Beh, parto da quest'ultima cosa, se ne valsa la pena sicuramente per me. Ne è valsa la pena perché comunque è come se ci fosse stato un punto fermo, cioè da lì poi è chiaro che si è perso da certi punti di vista, perché comunque il sistema scolastico universitario è comunque andato assolutamente nella direzione che le compagne e i compagni di scienze politiche mi avevano fatto vedere, no? Perché questo è il merito per me della Pantera, di avermi fatto vedere quello che poi è successo, e quindi è un punto fermo secondo me. Bene che ci sia stato dal punto di vista personale, assolutamente, cioè per me è stato fondamentale, perché un po' le relazioni, no? Poi sono state un po' dettate e costruite attorno al movimento, e questo per me è stato la base un po' per fare delle cose in seguito, anche se adesso, come dire, non mi posso dire un attivista in nessun modo, né nell'ambito lavorativo né nell'ambito personale, collettivo, però mi ha forgiato delle idee, cioè io quando faccio dei ragionamenti sento sempre che parto da dei presupposti che non sono, a volte si può pensare che siano rigidità, ma in realtà credo che siano proprio delle lenti di lettura della realtà, e quello non... Poi in parte in realtà c'è sempre mio padre dietro in tutto questo, non nego adesso più che allora, perché allora era solo scontro, adesso è anche in parte ascolto con lui. Però al di là di questo, cioè, è stata la Pantera che mi ha dato la possibilità di avere queste lenti di lettura che mi aiutano che mi aiutano a leggere la realtà, e quindi l'attivismo si è andato perdendo, ma la consapevolezza e la coscienza no, quindi direi tantissimo, ecco. Tu hai partecipato a delle iniziative nazionali della Pantera? Sì, ho partecipato almeno a due iniziative, una è stata l'Assemblea Nazionale a Roma, non riesco a dirti l'anno, credo che fosse il 90, però. Sì, 90, ma era Roma, non era Firenze? Io mi ricordo Roma, però forse quella è stata più avanti, Firenze no, e poi sono andata a Napoli. Napoli al corteo. Sì, per il corteo e anche lì, va bene. Napoli era, come dire, occupata forse da più tempo, credo, di Milano, quindi erano molto più consolidati nell'organizzazione, anche con una matrice partenopea, quindi anche credo meno seriosa, ecco, di quella milanese, però comunque sempre molto efficace. Tu dici Firenze, potrebbe essere che io invece mi ricordi Roma, ma Roma è stato più avanti. Guarda, noi abbiamo, ecco, questo è quello che sono sicuro, la prima assemblea a Palermo abbiamo delegato, io non mi ricordo le persone, mentre a Firenze abbiamo mandato degli osservatori, perché già Firenze era partita male, con grosse divisioni. Firenze era, credo, agli inizi di marzo, fine febbraio. Okay. No, e allora Roma è stata più avanti, come dici, e non era durante la Pantera. Ah, ok. Vabbè, poi dopo tu hai preso parte anche all'esperienza del collettivo politico universitario. Sì. Tu ti ricordi, non so per quanti anni ne hai fatto parte, dei momenti significativi di quell'esperienza? Beh, ricordi significativi, mi ricordo il 12 dicembre, con l'organizzazione del 12 dicembre, come momento molto molto importante. Beh, mi ricordo la controguida, il lavoro sulla controguida, il buio, soprattutto gli inizi, ecco, e quindi io partecipai con una compagna anche quella è stata per me un'esperienza interessantissima, facemmo un lavoro su Gladio e un articolo su Gladio con una compagna della statale, e quindi tutto quel lavoro di ricerca era stato molto interessante, eravamo seri, ecco, devo dire, era sicuramente una rivista universitaria, quindi quindi non con un valore, secondo me, di rivista, certo non era giornalismo, però forse di questi tempi forse è meglio che non fosse giornalismo. Però era ben fatta, quindi ognuno di noi approfondiva. Io ho avuto solo quell'esperienza su Gladio, però sicuro che è stata una fatica incredibile, è stato un lavoro per me, io l'avevo fatto con Patrizia, quel lavoro lì. Almeno io mi ricordo solo io e lei, però forse c'era anche qualcun altro che non mi ricordo. Potrebbe essere, perché io ero così, ero sempre un po' soprattutto all'inizio fra i piccoli, cioè i piccoli intendo non di età, proprio di esperienza. Quindi mi ricordo anche, ecco, per esempio, una cosa che mi ricordo, ma non so se era durante l'occupazione o subito dopo, quando avevamo però ancora l'aula 1. Mi ricordo il collettivo di studi, per esempio gli studi sul marxismo, perché non solo io, ma c'erano comunque più di uno che aveva bisogno di colmare delle carenze di proprio di studio, quindi era proprio un gruppo di studio, non era una commissione. E, beh, poi vabbè, chiaramente del CPU, quando diciamo ero già un po' più formata, un po' mi sentivo un po' di più di dire la mia, allora a quel punto sono passata all'attacco col collettivo donne. Ecco, quello è stato proprio il mio ambiente, effettivamente quello che più mi ha, in cui io mi sono riconosciuta di più, decisamente, perché comunque il collettivo femminista non ha, non so come dire, quasi non aveva bisogno di basi, cioè non avevi bisogno di in qualche modo di studiare qualcosa, perché era una condizione che io vivevo e che quindi mi sentivo in qualche modo di poter raccontare, rappresentare, e su quella mi sentivo di poter evolvere, sempre tornando, sempre però con quell'inizio lì, cioè, perché alla fine si tratta molto spesso di contestare un'autorità, che è un'autorità di ideologica, che è un'autorità che viene personificata da qualcuno. E quindi quella era la base. Chiaramente sulla questione femminista mi sentivo più parte, perché appunto non c'ho bisogno di ripetere la questione, cioè ero sicuramente prima donna che studente o studentessa, no? Cioè, quindi. E vabbè, poi finita l'esperienza nel CPU, adesso non mi ricordo, hai fatto, stavo forse 94, penso. E hai fatto un bilancio anche dell'esperienza del collettivo? Sì. E beh, del collettivo di quasi di più, posso dire, perché dal collettivo ho deciso di uscire, cioè quindi quella è una cosa già un po' più fresca, un po' più consapevole. Cioè, mentre all'inizio seguo un po' l'onda, voglio imparare, voglio ascoltare, un po' con un atteggiamento un po' passivo, diciamo. Ecco. Lì invece la scelta è stata più determinata. Un po' delle scelte politiche rispetto a come stava andando il collettivo, un po' che, come dire, l'esperienza universitaria per me era finita, io dovevo cominciare a lavorare, quindi non. Sì, io credo più o meno quell'anno lì, perché noi abbiamo. Appunto, avevamo casa, un affitto da pagare, insomma, quindi bisognava lavorare. E un po' anche mi sembrava che l'esperienza un po' del collettivo fosse finita, però mi rendo conto che forse era finita per me, perché avevo delle necessità, dovevo chiudere un po' con l'università, ecco, quindi non aveva più tanto senso rimanere lì a fare l'eterna studentessa, quindi. Però il bilancio è sempre estremamente positivo, estremamente positivo. Io credo che, allora, io sono state due le esperienze fondanti per me, al di là dell'occupazione, appunto, vissuta però un po' così a spizzichi e boccone, molto di più il collettivo, l'esperienza del collettivo femminista all'interno del collettivo, perché lì appunto c'era solo l'autorità fuori dall'università, ma anche lì dentro l'università e dentro il collettivo, quindi il collettivo. E poi chiaramente io ho fatto 8 anni di convivenza in Via Ricordi, che sono una conseguenza del collettivo, quindi per me è durato, secondo me, 4 anni il collettivo, ma è durato 8, 10, poi fino ad adesso, cioè le persone che comunque io frequento, con cui anche se casomai non spessissimo, ma con cui io mi sento comunque alla fine sempre più in collegamento, scazzando, discutendo, non essendo d'accordo su tutto, cioè, sono le persone che arrivano da là, quindi, cioè, io posso dire che al di là appunto delle, poi delle relazioni, delle altre relazioni, ma è stato il collettivo che mi ha portato nelle relazioni fino a qua, quindi direi tante cose, tanta roba, come si dice.